Ciao Luciano, ti chiedo per favore di presentarti chi sei e dove lavori, insomma. Salve a tutti, sono Luciano Frontera, sono un RSU Whirlpool di Cassinetta, lavoro a Cassinetta da 24 anni e mi occupo attivamente di sindacato da circa 15 anni. Sono delegato per la FIOM-CGIL. Bene. E mi puoi parlare per favore della situazione che c'è in Whirlpool e in particolare nella Whirlpool di Cassinetta? Nel gennaio del 2023, Whirlpool dichiarava che il mercato europeo non era più attrattivo e quindi cercava degli interlocutori, o meglio, nel gennaio 2023, arrivava alla conclusione della dichiarazione che il mercato dell'elettrodomestico in Europa non interessava più il business e quindi cedeva parte dell'attività ad una nuova società dei turchi di Arçelik. Al momento i turchi di Arçelik saranno proprietari a partire dal 1 aprile del 75% della quota, mentre Whirlpool rimarrà con il 25%. Ok, e da voi lì proprio lì a Cassinetta com'è la situazione? Da Cassinetta a Cassinetta siamo dall'annuncio di Whirlpool e quindi della creazione di questa nuova società che, ripeto, essere stata annunciata nel 2023, in una situazione di attesa, perché non ci sono stati contatti tra le due società, essendo due società concorrenti, e l'ultimo step, l'ultimo passaggio l'abbiamo avuto il 7 marzo con la decisione dell'antitrust del Regno Unito che ha dato parere favorevole all'acquisizione di Arçelik, che quindi che non ci fossero problemi di sovrabbondanza di prodotti anche in quel mercato. Quindi che le regole del mercato fossero rispettate. Va bene, sì, mi pare che ricorda un po' lo smantellamento, no, che sta avvenendo anche in altri settori, no? Ma io non, sì, più che smantellamento direi che si cerca di fare dei gruppi sempre più grandi per resistere come dire, alla concorrenza data dai colossi che però hanno un costo del lavoro magari minore, quindi riescono ad offrire prodotti a più basso costo, chiaramente anche di una qualità di gamma inferiore. Ok. Oggi sì, aggiungo che la particolarità è che passiamo da una grossa multinazionale americana a quello che è una famiglia di fatto turca, quindi non c'è un'acquisizione in questo caso di un'altra multinazionale su un'altra multinazionale, oppure quello che sarebbe ancora peggio, di un fondo azionario di una multinazionale. Ok, e ti passo un'altra domanda. E secondo te a giugno, no? Scadrà, a fine giugno mi sembra che scadrà il contratto nazionale, no, dei metalmeccanici, no? E mi chiedo come la lotta appunto per il rinnovo del contratto possa comunque aiutare anche la situazione in cui vi state trovando. La questione del contratto nazionale, dove abbiamo appena presenteremo, o meglio, abbiamo una piattaforma unitaria FIUM-FIUM-WILM che presenteremo alla parte datoriale dopo aver fatto il passaggio democratico, chiamando tutti i lavoratori metalmeccanici al voto attraverso un referendum che si concluderà il 10 di aprile. La trattativa di la piattaforma è ambiziosa, ce ne rendiamo conto, in una situazione difficile per tutto il settore metalmeccanico, ma serve per dare anche una scossa a quelli che sono a quello che è il salario dei lavoratori che hanno subito l'aumento dei prezzi dovuti a un'inflazione alta, in parte recuperata dagli aumenti che l'ultimo delle tranche di aumenti, l'ultimo di quali ci sarà appunto a giugno del 2024, però serve, come dire, ribadire. Cercare di recuperare il più possibile l'inflazione per avere la possibilità di arrivare a fine mese in maniera tranquilla. Oltre alla parte salariale ci sono altre richieste che tendono, cercano di migliorare quelle che sono le condizioni sia di vita nella fabbrica ma anche fuori dalla fabbrica. Sappiamo che sarà una trattativa lunga, immaginiamo che sarà una trattativa lunga, che la parte datoriale sarà poco propensa a trattare le nostre richieste, ma con l'aiuto di tutti i lavoratori cerchiamo di ottenere i risultati che ci stiamo ponendo. La questione, l'unione dei lavoratori è importante, soprattutto in questo caso. Quando si parla di contratto nazionale si parla della vita di 1,5 milioni di persone, molti dei quali hanno un aumento salariale solo attraverso il rinnovo del contratto nazionale. Sì, infatti leggevo nel vostro documento che è proprio una questione importante rispetto alla contrattazione anche aziendale, no? Per riuscire a proprio a ottenere di più, nel senso tramite il contratto nazionale, giusto? C'era una cosa, un passaggio di questo genere, mi sembra, nel documento che avete prodotto. Sì, noi Integrazione. abbiamo fatto una richiesta all'azienda di venire incontro, o meglio, senza venire incontro. Nel 2023 abbiamo fatto molti giorni di cassa integrazione, che vuol dire perdita salariale netta. A questo abbiamo fatto una richiesta esplicita anche a livello nazionale, una sorta di integrazione di qualsiasi tipo, anche attraverso dei ticket welfare, in modo da cercare di recuperare una minima parte del salario perso attraverso i giorni di cassa integrazione. Ad oggi la risposta dell'azienda è stata negativa, anche in questo caso. Con la nuova società che ripeto, avrà vita il 1º aprile, la nostra richiesta sarà portata ancora avanti e quindi rimane sul tavolo questo tema. Ok, infatti a proposito appunto diciamo, di lotte, no, che sono un po', che mi sembra che negli scorsi mesi, non so se ti ricordi, una delegazione proprio della FIOM era andata negli Stati Uniti per parlare col sindacato, quello dell'automotive UAV, Sì. e proprio perché anche loro chiedevano dei aumenti appunto salariali, no? Cioè, secondo te anche quel tipo di lotta, comunque quel rapporto che c'è stato, può essere un esempio anche per il nostro paese e per la lotta che state portando avanti, secondo voi? Mi auguro che ci sia qualcosa del genere, perché la lotta dei lavoratori, diciamo, subisce, no, tutte queste situazioni dove si fa fatica ad avere i lavoratori in fabbrica una settimana intera. Quindi questa situazione già pone in essere un problema su gestire, quindi unire attraverso una lotta i lavoratori. situazioni diverse vanno studiate e quindi tutte le soluzioni, tutte le idee sono valide. E bisogna poi concentrare i lavoratori e far capire che l'obiettivo è giusto e che per raggiungerlo bisogna lottare. Senza la lotta non ci sono risultati. Ok, invece ti chiedo cosa ha fatto il governo, no, il governo, cosa ha fatto questo governo e i governi anche precedenti rispetto appunto alla questione Whirlpool, ci ricordiamo tutto quello che era stata anche la lotta della Whirlpool di Napoli, ma in particolare voi state chiedendo qualcosa al governo, che cosa non ha fatto e che cosa potrebbe fare? Per quanto riguarda il governo attuale, siamo fermi al fantomatico decreto 1° maggio, data scelta per sminuire quello che è la festa dei lavoratori, dove in una seduta di pochi minuti, alla fine c'è stata solo una dichiarazione del ministro Urso, ministro del lavoro, dove parlava, che dichiarava l'attuazione di una Golden Power per il settore per Whirlpool. Questa è rimasta solo una dichiarazione, in quanto non è stato prodotto nessun decreto legge. Si è poi scoperto che tutto verte in una lettera di raccomandazione inviata a CEVIC, dove si dice che non ci devono essere licenziamenti e dove si deve tenere attivi i siti produttivi italiani. Questo chiaramente è una misura del tutto insufficiente, quindi si chiede al governo subito, c'è già stata una richiesta a livello nazionale di aprire un tavolo di confronto tra parti sociali e nuova proprietà in modo di trovare delle soluzioni insieme che permettano la continuità produttiva e il mantenimento dell'occupazione. Ok, e secondo te? Sì, manca magari la parte dei governi precedenti, se vuoi riassumo un Certo, po'. sì, va Sì, benissimo. noi abbiamo avuto la prima vertenza Whirlpool nel 2015, finita con degli incentivi all'esodo, quindi accompagnamento alla pensione dei lavoratori in esubero, e nel 2018 poi c'è stata tutta la questione Napoli, dove si è raggiunto un accordo chiudendo dove Whirlpool ha chiuso il suo sito, ma si è avviato un processo di industrializzazione dell'area che ha permesso l'occupazione, permetterà, è cosa recente, l'occupazione dei lavoratori che erano rimasti ancora sotto, diciamo, sotto contratto in Whirlpool. Ok, ti chiedo una cosa perché ho saputo recentemente, no, che ci sono state delle, come si chiama, diciamo delle minacce, no, rispetto al taglio, rispetto ai lavoratori dello staff, che fanno parte dello staff leasing. Se poi hai notizie di questo, ce lo puoi dire? Sui lavoratori in staff leasing, noi abbiamo già chiesto l'assunzione nella nuova società, anzi l'abbiamo chiesto già a Whirlpool, ma Whirlpool non è stato in grado di soddisfare la nostra richiesta. Chiaramente è una richiesta anche questa che rimane sul tavolo e che faremo alla nuova società. Dovessero esserci dei tagli a quelli che è il numero ad oggi dei lavoratori in staff leasing presenti in azienda, chiaramente dalla parte sindacale ci sarà come risposta un no e la richiesta alla nuova società non solo di tenerli tutti all'interno del sito, ma di passarli con un contratto a tempo indeterminato. E all'incirca quanti sono questi lavoratori? Parliamo di circa, non so se è un numero che posso dire però Ah, questo. ok, allora niente. Sì. Sì, non voglio. Vai tranquillo. Ok. Va bene. Ho visto che quindi state distribuendo questo documento, lo state distribuendo anche nell'azienda, no? E vuoi fare un appello ai lavoratori che riceveranno questo documento che avete scritto? Ai lavoratori abbiamo deciso di produrre un documento per avere un contatto diretto tra delegati di fabbrica e lavoratori sia iscritti che non iscritti, in quanto pensiamo che la comunicazione è alla base di quello che è il nostro rapporto. Quindi lo scopo è di fare chiarezza su alcuni punti che ci è sembrato di capire fossero un po' oscuri, diciamo così, non recepiti abbastanza dai lavoratori. Quindi dalla richiesta di maggiore chiarezza o chiarimento su alcuni temi, la FIOMA ha deciso di parlare direttamente ai lavoratori. Questo quindi era lo scopo principale. Richiamiamo degli obiettivi, ci poniamo degli obiettivi da raggiungere e chiamiamo i lavoratori alla partecipazione attiva, perché senza la partecipazione attiva dei lavoratori nessun obiettivo può essere raggiunto. Da nessuno, da nessuna parte sindacale. Quindi l'unione è necessaria anche in un momento così difficile dove i giorni di cassa integrazione pesano parecchio, dove i lavoratori sono un po' non hanno una chiarezza su quello che è il futuro, non hanno risposte dalla vecchia società, non conoscono ancora la nuova società, quindi nonostante tutto questo, bisogna comunque andare avanti insieme.